should fly the fleeting season. Allora, dunque, quando sono le 11:20, eccolo, l'avete già sentito, lo state sentendo. Ciao Salvatore, siamo con Salvatore Stasi. Ciao, buongiorno a voi, buongiorno a tutti i compagni in ascolto. Di Cobas di Taranto, ma soprattutto, insomma, parli, possiamo dire, insomma, anche a nome del comitato, esatto, a nome del comitato. Assolutamente sì. Cittadini e lavoratori liberi e pensanti, che riunisce appunto cittadini e lavoratori ILVA. Allora, dunque, già da stanotte, Salvatore, si sono diffuse inviti a partecipare a una sorta di presidio. Mi sento un po' male però, eh. Allora, un attimo, vediamo di risolvere immediatamente tutto. Va meglio adesso? Assolutamente sì. Ecco, perfetto. Dunque, già a partire da questa notte sono iniziati degli inviti a partecipare a dei presidi organizzati presso le portinerie, e anche oggi per le 13:30 c'è un invito con un comunicato di partecipare a un incontro che si terrà proprio presso le portinerie. Heidi, ci puoi spiegare il motivo di questo? Allora, sì, assolutamente, molto rapidamente, anche perché qui le evoluzioni ovviamente sono minuto per minuto, e questo è abbastanza scontato perché stanotte c'è stato il provvedimento della GIP che chiude l'Imperio, e chiude davvero, la cosiddetta area a caldo, quindi la FO1, l'Altiforno 1 e l'Altiforno 5, ma su questo torno immediatamente dopo. Allora, siccome noi sapevamo già nei giorni scorsi, insomma, siamo, si può dire, in assemblea permanente, della possibilità di questo provvedimento, poiché il piano che aveva presentato l'ILVA per il risanamento era chiaramente una bufala, e questo l'hanno detto i custodi, a seguire l'ha detto la procura, si aspettava adesso conseguentemente la GIP che provvedimento doveva prendere. Sulla base di questo eravamo, appunto, dicevo, in assemblea permanente per anticipare dei tempi, perché ci aspettavamo in qualche modo la reazione, diciamo, padronale, insomma, come dire, con i soliti accoliti al servizio, ecco, per capirsi. Allora, e mi dispiace di perdere un po' di tempo per spiegare questo meccanismo, altrimenti non si capisce quello che sta succedendo oggi. Allora, sulla base di questo, noi venerdì scorso abbiamo fatto già un volantinaggio con le nostre proposte, cosa che i lavoratori già ci stavano chiedendo, perché oramai, come dire, è un po' cambiata l'aria in Ilva, nel senso che i lavoratori non sono pedissequamente, come dire, al servizio di Fiume Will, ma anzi, diciamo che su una serie di questioni noi abbiamo rotto questo meccanismo di contrapposizione tra ambiente salute e lavoro reddito, insomma, no? E quindi sulla base, come dire, noi abbiamo fatto una serie di proposte, insomma, che i lavoratori hanno discusso in modo proprio organizzato, insomma. D'altro canto, ovviamente, l'azienda si è data subito da fare dopo quei no, nel senso che ha attivato i propri capi capetti, ovviamente con forma di ricatto nei riguardi dei lavoratori, e già venerdì loro si sono posti in presidio, ma erano, credo, 15-20, ma contati, e non sto dicendo una sciocchezza, mentre, diciamo, noi già venerdì avevamo avuto un'assemblea a una delle portinerie in particolare, ma anche all'altro dove avevamo volantinato, c'era questo dialogo continuo con i lavoratori, dicendo, come sempre, diciamo, qui non può essere messo in contraddizione, non possono essere messi in contraddizione gli elementi, giusto per far breve. Questo detto, come dire, cosa è successo dopo il volantinaggio? È successo che lunedì questi qui hanno riattivato il loro diciamo presidio, e questa volta erano una cinquantina, ma tieni presente che veramente stanno iniziando a girare, hanno girato i reparti per reclutare tutti i reccafedi, mentre noi, come dire, in fabbrica i nostri lavoratori del comitato sono stati invitati proprio a fare, come dicevo prima, delle assemblee auto-organizzate per capire, insomma, quali sono i passaggi successivi. Sulla base di questo, di quello che è accaduto lunedì sera, ci siamo visti e abbiamo detto che era necessario, perché ci aspettavamo da un minuto all'altro questo provvedimento che è avvenuto stanotte, per lo meno, diciamo, in tarda serata di ieri, ci aspettavamo, appunto, che loro potessero, come dire, sempre proporsi in termini di blocco della città, una sorta di scontro con la città, mentre noi davamo indicazione che nessun blocco può essere fatto contro la città, che ha già pagato, e che al massimo va fatto verso l'Ilva, in quanto è quello che ha, come dire, ha causato tutta questa situazione e quindi deve iniziare anche a pagare da questo punto di vista. Bene, e quindi avevamo proposto quello che dicevi tu, cioè oggi un'assemblea al di fuori delle tre portinerie, la A, la D, che sono quelle poi da cui escono praticamente tutti i lavoratori, e la portineria degli appalti, con un manifesto molto bene accetto. Per oggi cosa è successo appunto stanotte con questo provvedimento? Allora, qualcuno, qualche capo capetto è salito su una torre, giusto per paraculare un po' quella che ha fatto l'Alcoa in maniera diversa, insomma, i minatori sardi, a cui abbiamo ampiamente dato già la nostra solidarietà come comitato, ma hanno paraculato in questo senso. Allora, siccome ci aspettavamo qualcosa del genere, che potesse accadere, diciamo che adesso non ve lo posso dire per telefono, però i nostri lavoratori che stanno all'interno cercheranno di mobilitare i lavoratori nella direzione giusta, cioè per far pagare a Riva, sostanzialmente, per colpire l'azienda. Ora, io non posso dirvi qual è l'ipotesi che stanno facendo, per ovvi motivi, perché dovrebbe essere una cosa abbastanza a sorpresa, per cui adesso vediamo, siccome gli sviluppi sono minuto per minuto, io non so se a quell'ora realmente riusciremo a fare l'assemblea dei lavoratori, perché probabilmente in quel momento, su nostra indicazione, cioè su indicazione del comitato, staranno facendo delle altre cose. E quindi vi dico che in questo senso appunto colpiranno esplicitamente gli interessi dell'azienda. Questo è allo stato dell'arte, adesso che sono, non so, le 11:30, non lo so che ore sono, ma allo stato dell'arte la situazione è questa, e quindi, come dire, vi darò gli sviluppi, perché se, ovviamente, se va in porto, come dire, quello che noi abbiamo pensato, pur in una situazione che, come tu e tutte le compagne e i compagni in ascolto possono immaginare, una situazione di estremo ricatto, perché noi, sulla base del fatto appunto che si era rotto questo meccanismo che per anni è imperato in quell'azienda, e che quindi anche gli stessi lavoratori oramai non si sentivano più di farsi, fra virgolette, trattare come burattini da Fiume, Fiume e Wilm, e questo è già accaduto dal 2 agosto, oggi più che mai, diciamo, è necessario, fra virgolette, contarsi, nel senso che, come tutti capiscono, tutte e tutti capiscono, di fronte al fatto che la gente probabilmente in questo momento sta dicendo statevi, arrivederci e grazie, cioè siete in libertà, in particolare i lavoratori della cosiddetta area a caldo, quindi degli altri forni, ovviamente non sappiamo anche umanamente che tipo di reazione potrà scattare. Noi l'indicazione, i nostri lavoratori la stanno già andando, mentre sono al telefono mi sono arrivato un paio di squilli, quindi è possibile che mi avvisino su che cosa sta accadendo. Senti Salvatore, nostra, ripeto, va nella direzione di colpire gli interessi dell'Ilva, interessi economici, chiaro, quindi non chiaro, è chiaro, altro, chiaro. Mi dispiace, non posso dirvi altro. Ma ecco, assolutamente comprensibile, no. non ti chiediamo di più. Assolutamente niente di, tra virgolette, illegale, insomma, non so, però, come dire, siccome è un'azione che dovrebbe andare a sorpresa, evitiamo, che, come dire, siccome notoriamente siamo tutti benché sotto controllo, insomma, probabilmente ascoltano più Radio Onda Rossa, la Ligos, che Radio Vaticano, e quindi, come dire, mi sembra chiaro che noi li possiamo preannunciare cose che invece saranno a sorpresa. Senti Salvatore, mi auguro. Ma la decisione che ha preso questa notte il GIP è innanzitutto di respingere il piano di, chiamiamolo, riammodernamento proposto da Ferrante, e questo implica già direttamente l'interruzione del ciclo produttivo? Ecco, allora, chiariamo anche questo. È evidente che la GIP non poteva prendere un provvedimento differente, perché nel momento in cui sono stati indicati dei custodi, tra cui c'erano tre ingegneri dell'ARPA regionale, che evidentemente non hanno avuto, come in altri casi, anche perché adesso è sotto i riflettori, nell'occhio del ciclone la vicenda, non hanno avuto, come in altri casi, la faccia di girarsi dall'altra parte e far finta di nulla, come era accaduto per tantissimi anni. E quindi hanno rigettato, no, hanno detto un no secco a quel piano, motivandolo ovviamente anche tecnicamente. Ma noi che l'abbiamo letto insieme ai lavoratori ILVA e ci hanno spiegato una serie di passaggi, veramente era francamente proprio da ridere. C'era solo funzionale a stare su un altro paio di anni e poi comunque chiudere, perché questo poi l'altro aspetto della vicenda. Per cui in un certo qual modo la GIP, come dire, era naturale che prendesse questo provvedimento, perché era quello che poi, no, ha chiesto il sequestro. Quindi la naturalezza della, come dire, è un percorso lineare, come, non so se mi spiego, da questo punto di vista. Ti dico, non so se adesso tecnicamente l'azienda può fare un ricorso contro questo provvedimento della GIP per prendere ulteriore tempo, perché poi di questo stiamo parlando, perché credo, allargo un po' il discorso, abbiate seguito tutti quanti, insomma, Crini che cosa ha detto, qui decido io e non la magistratura sulla questione dell'AIA, cioè l'autorizzazione ambientale, l'incidenza ambientale, eccetera, eccetera. Ma per dirvi, no, io tecnicamente non lo so se adesso ho questa possibilità l'ILVA di fare un ricorso contro. Punto. E per il resto, ripeto, io lo reputo un atto assolutamente veramente in linea, ma voglio dire, poi nel rispetto di una serie di norme che questi hanno palesemente violato. Il resto è aria fritta, il resto è complicità, insomma, con Riva e tutto ciò che ha combinato, insomma, è tutto, sono tutti a libro paga. Fra l'altro è possibile che addirittura in questi giorni scoppi un'ulteriore, virgolette, bomba, mettiamo molto e sottolineiamo virgolette, nel senso che c'è un'altra inchiesta che è parallela e che riguarda le intercettazioni telefoniche, dove uno è stato confermato che uno che ha le pubbliche relazioni dell'ILVA, che adesso è stato licenziato perché è quello che è stato beccato e fotografato, ha dato anche Repubblica TV come video, mentre passava ad un perito dei PM la busta con 10.000 euro, una tangente, diciamo tutta la cosa così com'è. Questo signore, che si chiama Archinà, ripeteva in una telefonata con Riva che Clini è un uomo loro. D'altro canto, uno che è stato 20 anni al Ministero dell'Ambiente a fare il tecnico del piffero, insomma, come dire, no? E beh, hanno, certo, autorizzato l'ILVA a massacrare questo territorio, altro noi, come dire, logicamente non ci possiamo aspettare. Ma aggiungo, ovviamente qui andranno dentro politici, sindacalisti del territorio, e quindi è abbastanza corposo, e pare che sia veramente una bomba atomica. Chiaramente per noi la cosa non è nuova, al di là dei nomi che usciranno, però sul territorio potrebbe avere anche un effetto deflagrante. Certo, allo Stato, certo. Diciamo che la situazione è questa. Eventualmente, io non so adesso come la programmazione. No, allora, di sicuro insomma, possiamo, anzi ti chiedo, ecco, insomma, la cortesia magari di eventualmente vi richiamo, non esatto, è di tenere, di tenerci informati su quanto accade. E in ogni caso rimaniamo comunque che intorno a mezzogiorno e mezzo magari ci risentiamo. In quell'orario mi sembra un po' più difficile, problematico, però okay, ci provo, nel senso, no, ma giusto per capire insomma se ci sono delle novità da comunicare. Esatto, d'altro canto, ecco, l'ultima cosa volevo chiederti, Salvatore, sì, insomma, l'azione del comitato è molto chiaro, in queste ore si sta precisando anzitutto, come tu hai detto e come esplicitamente insomma inserito all'interno di un vostro comunicato, nel tentativo, diciamo, di sensibilizzare i lavoratori affinché non si facciano manovrare da aziende e sindacati, in risposta anche a quanto tu dicevi, a queste iniziative insomma che ci sono state anche nelle ultime ore. D'altro canto, sì, Ferrante, la sua clac, insomma, se la porta dappertutto, lo sappiamo. Prima era più di massa, oggi è molto ridimensionata. Però d'altro canto, anche a fronte di questo provvedimento del GIP, da parte vostra c'è anche un impegno nel chiedere insomma che siano salvaguardati comunque salari e prospettive, insomma, nel caso anche in cui l'impianto dovesse fermarsi, a carico chiaramente delle parti datoriali, diciamo, no? A parte dell'azienda e dello Stato, che rispettivamente, prima lo Stato e poi l'IVA, hanno tenuto in mano quel luogo di lavoro, no? Prima era statale, insomma, era parastatale, e si chiamava Italsider, dal 95 si chiama ILVA ed è di Riva, ma sono entrambi corresponsabili, insomma, di tutto quello che è accaduto. Noi non dimentichiamo e non vogliamo farlo, ma già negli anni 70 noi ponevamo, e tanti ponevano certi problemi da questo punto di vista. Quindi noi non siamo nuovi, come dire, l'importante è che oggi invece c'è tutta una città, come dire, che su questo terreno e su questa azione del Comitato del 2 agosto, come dire, è come se fosse stata la MIC un detonatore per una bomba che era lì pronta ad esplodere da anni, perché ovviamente tu capisci, quando c'hai i morti puntuali in famiglia e tutto quello che puoi immaginare, ma non so ripetere perché tante volte ho raccontato a Radio Onda Rossa da un punto di vista ambientale qual è la situazione di questo territorio. È chiaro che, come dire, c'è un elemento di rottura da un lato e anche di consapevolezza, di presa di coscienza, e l'elemento fortissimo nuovo è il fatto che, come dire, i lavoratori sono in prima linea questa volta. Cioè, non so, la differenza è sostanziale e, come dire, è quello che probabilmente più di ogni altro ha rotto una serie di equilibri. Non siamo così sciocchi da pensare che, come dire, abbiamo risolto la questione, eccetera, eccetera, perché ripeto, di fronte al fatto che ti possono dire, amico mio, tu da domani stai a casa, è chiaro che una reazione emotiva anche di un certo tipo noi ce la possiamo aspettare, anche da chi oggi, parlando con i lavoratori, dice sì, io non voglio più farmi trattare da burattino, non voglio più scendere in piazza, non voglio più bloccare la città per gli interessi di Riva. Però tu capisci anche che non è una cosa così immediatamente data. Vedremo, perché qui in questo senso, poi ti dicevo, le questioni possono essere veramente minuto per minuto. Intanto, se è andata in porto quell'azione che si era pensata, abbiamo già fatto, come si dice da queste parti, tre punti e una scopa. È chiaro, no? Insomma, abbiamo un bel vantaggio, perché vuol dire che ci sono delle altre indicazioni che individuano i responsabili di tutto questo che è accaduto nel corso di questi anni e vogliono fargliela pagare a lui, punto e basta. Non so se è chiaro. È chiarissimo. Allora, seguendo proprio questo indirizzo, facciamo che ci riaggiorniamo più tardi, anche più tardi, diciamo così, internossa, Salvatore, vediamo un po' come va. Sì, certo, per capire un po' la situazione qual è. Va bene, a dopo allora. Ciao, buona lotta. Ciao, ciao, ciao.